facilissimo, ho studiato l'ovvero, ho detto appena arrivi a Chiari e scendi sino alla fine, proprio l'ultimo ingresso per Sassari, e vengo a prenderti lì alla Brettella praticamente. Sono andato a prenderlo, sono andato in garage, l'ho vista, mi ha fatto la segna, immediatamente se l'ha portata via. Così. Ora non c'è neanche un'antenna di un certo tipo. E comunque di radiali, insomma, se in una zona in cui non può prendere anche 4, un terrazzo non può prendere 4, che poi sono impegnativi e poi diventa un'antenna più incasinata alle altre, se ne stiamo tenendo. Che diventa una raggiera, rende di più, però è anche più soffetta la cosa. Sì, è un hobby un pochettino un po' impegnativo questo, sia per tecnica sia per percorsi, anche per fatica, e poi comunque c'è da fare una considerazione, perché siamo un po' tutti oramai in un'altra condizione, cioè spendi un sacco di soldi, ti metti l'antenna a base, fai tricchi, fai track, poi quando la usi, io ho il TS2000 che ad esempio è quasi sempre spento, cioè quanto sarà stato, ha fatto messo 5-6 volte, per spento il UHF è proprio UHF, è praticamente inusato, ma così anche altri apparati. Se mi ha a casa, ho dato oramai, l'unica è metterti, come ha fatto Vittorio, la sopra in macchina, buono, oramai ho fatto impressione, non ci andiamo, perché dobbiamo pure restituire le soldi che non hanno neanche dato a queste brave persone che ci governano. E niente, quindi ci attacchiamo al tram. Io ti posso dire che in macchina non ce l'avevo, ho già fatto il rotto, perché in pratica non, da quando mi hanno trasferito a Sassari, ho lasciato, perché se sempre facciamo mettere un ambito in questo pezzo di pannello, che sto facendo, vabbè, la metto loco. E in pratica ci ho rinunciato, anche perché non stavo facendo più attività, e quindi ha giudito, ma lascio e via, lo devi fare, non avevo più il tempo, diciamo. Per me è successo così, a parte che poi mi hanno cambiato pure la macchina, tra l'altro facevo l'antenna, non ho messo l'antenna solo ai servizi, poi c'avevo anche l'apparato eccetera, poi ho cambiato la macchina e non l'ho più messo, ma era UHF in banda, adesso non vale più la pena neanche metterlo, perché non c'è nessuno, sempre l'ultima mazza, quindi non fa neanche a metterlo quando si sposta in città eccetera, insomma tutti stagnati, quindi no? Anche a 5.5 è visto, si ascolta, ma è raro che ci sia qualcuno. Qualcuno si lamenta, dice non c'è più nessuno più là, nessuno, sono tutti quanti di città, qui e là, quella, cioè alla fine non ne vale più la pena, capite? Vedo che qualche rimotore addirittura sta entrando anche 27, quindi non sono solo, vai, a parte la io e tu che no, ma non abbiamo mai attaccato, siamo sempre sentiti, ma gli altri, ho visto qualcuno sta entrando, ogni tanto si fa sentire, quindi non è che sono da solo. Sì, io ho quasi fatto questo affare americano, no, io ci sono sempre stato, sempre nel caso in ascolto, ma per tante volte in pista, così, però siamo secondo me la colpa è neanche, perché stanno attaccando queste settimane, cioè non c'è tempo di respirare, di saltare, vai lì, vai là, cioè non è neanche voglia, quindi arrivi a casa, ti guardi la televisione, e va a letto, va a rifare, è un macello, capito? Stiamo riducendo ormai a... così, in basta la gara, facciamo passare la bugia di tutto questo qua. Infatti dico, infine cosa che fai? Cosa fai? Vai a fare attività varie, si dove? Non è che ti muovi a... capito? Quindi a me, alla fin fine, non è che... io dico sempre, per noi animatori è importante fare radio, no? È importante fare radio, già fa. Poi come si fa la radio non è un problema, non è un problema come si fa la radio, l'importante è farla, perché c'è molta gente che non la fa neanche così come la facciamo noi, quindi a un certo punto nel fare poi i discorsi personali che facciamo sempre un po' in generale, no? Non ha mai fatto niente di quello che pensano gli altri, dicono gli altri. Io faccio radio così. L'importante è che ci sia, l'importante è che ci sia, anche perché se sento un amico io ho sempre radio di accese 950, lo sto accendendo poco, come tutti accendendo poco il TS2000, ma per questione di RF, hai capito, le antenne sono tutte vicine, quindi può capitare anche se è un disturbo tra una radio e l'altra, però può capitare che ci sia un ingresso di RF, perché devo fare danno. Se sento qualcuno entro, altrimenti ne rimango qua. Come oramai stiamo facendo tutto. Io faccio ascolto, lo sai, quindi fortunatamente la mia attività si salva. E quindi bene o male riesco sempre a operare, anche adesso mi preoccupo, c'è un altro apparato che sta ricevendo, ho detto anche fare qualcosa di, però effettivamente per parlare è un po' in salita. Vabbè, ecco, io ti saluto. Sentiamo, passo, guardami un po' di TV perché ultimamente stiamo soffrendo anche di acciacchi, io li chiamo dalla vecchiaia perché siamo di schiena, mal di collo, tu sai benissimo, no? Quando è un classico per cui guida, è quasi impossibile che non ci abbia il mal di testa, ma il mal di collo e il mal di schiena. Quindi anche stare in stazione diventa una sofferenza, preferisco mettere a letto subito appena è l'occasione. Lascia perdere quello dell'ordine del giorno, già fa quello dell'ordine del giorno, anche io sto soffrendo tantissimo di questo cavolo di mal di collo, mal di tutto, proprio perché come hai detto tu è il problema di chi guida e quindi automaticamente è così. Va bene, non ti trattengo, anche io la ciao, la saluto a tutti, anche qui adesso un ascolto e se coincide ci sentiamo dopo perché domani lavoro e quindi devo fare presto, no? Un'oretta di radio me la faccio sempre dopo cena. Ciao, grazie delle due chiacchiere, dei controlli e ci si riascolta, dai. Ben ascoltato. Ciao, buona cena anche a te allora. Ok, faccio ancora buona serata anche per ascoltato. Ciao, ciao. Ciao, Gianfra, ciao. Scusami Claudio, ma manca la luce a casa, è un casino, non riuscivo a rientrare, ero nervoso con un coso. Non so che volevo fare nulla. Manca la luce, va bene. E poi sono fatto di sì perché laggiù non è scattato, adesso non è scattato, poi è tornata da sola, quindi suppongo che sia mancata la leva, che non ci sia niente di... di cotta, ma del genere, praticamente è scattata, se sei sta cosa che ti fatti tutti con le cammere, con la pila, non c'era nulla. Con la pila si è sceso giù, ho controllato l'interruttore generale, insomma era attacca a posto e sono stato Claudio mi ha detto che fa un quarto d'ora, quindi non lo stavo a mangiare. Ogni tanto uno fischia, fa, lo fai venire avanti, non risponde, allora si va a bilare tutti gli occhi. Hai fatto bene. Questo Giuseppe, ultimo, mi viene visto, questo si trova là. Mi ha detto che con il vitellino e domenica ha detto che si fa vedere il suo palazzo. Ha detto che passa qua, poi si arriva al palazzo, mi ha detto. Il vitellino? Là c'è il figlio, là, me lo chiama. Domani! Ma oggi io sto dicendo stanotte. Che fai? Però se devo andare a lavorare domani, ma domani non lavoro. Ma non lavoro, ma è libero, è col figlio tutto il giorno. Alla mattina c'è? E la mattina domani mattina, non so che ora, se sarà di 10, 11, 15, non lo so comunque. Poi mi dico il lino e poi lo porta a casa sua e sta lì a casa sua. Dopodiché alle 8:30 mi sembra una cosa compagna e poi libero. Grazie, avevo capito vitellino, non il grechellino. Diciamo se ti intendi vitellino. Ma questo grechellino non vitellino. Poi ancora di più mi sono meravigliato quando ho detto, il figlio come lo vuoi chiamare? Il tuo vitellino. Sì, vabbè, adori, ma vabbè, tu dormi ancora. No, non so che dormi, sono abbastanza eccitato. Sono uscito di testa perché non trovavo gli occhiali, adesso li ho trovati finalmente. Ah, meglio così, sono contento. Sai, se ti dico dove volevo messi, potevo cercarli per dare comunque, non li avrei mai trovati. Sono salito sul mobile a prendere un pezzo perché c'erano burini imboscati, picchi. Prendere un pezzo, ho appoggiato gli occhiali sopra il mobile. Sì, va bene, visto. Meglio così. Ah, sono diventato prossimo tutta la sera, Dovevo entrare su Facebook e non sono potuto entrare perché ero tra amici e non vengo un crimine alla bici. Ma se metto anche un nudo su Facebook, dico che sto cercando una ragazza buona, di generosa, che non si affanda, che non voglia niente, che la pensione me la lascia stare, che li lavora e che mi cambi di stimo. Chiunque interessato è pregato di telefonarmi. Ma su Facebook non si fanno queste cose. Su Facebook si parla con gli amici. Faccio, apro un sito. Il Maria con il mezzogiorno. Allora senti, avevo già se uso il computer, meglio niente, rimango così, sto tranquillo, non ho nessun problema, non vedo nessuno, non conosco nessuno, non devo fare appresso agli altri. Quella figo è un casino. Il computer me lo trae. Però è venuto anche vendendo 50 euro. È un 23 col monitor. Perché non me lo faccio proprio un tubo di questo. Cioè il monitor costa di più? Beh, logico che non lo costa di più. Ah, infatti con i nuovi che sono usciti costano di più e i monitor vecchi ce li butti la mondezza perché non vanno bene. Compreso anche il resto. Quindi se prendo per uno come si deve, in seguito, nuovo, faccia tutto e intanto la fabbrica non serve più a niente adesso. È finita l'epoca di cambiare le schede, modificare le schede, è tutto uno adesso, quindi bisogna svegliarsi. Uno, due, tre, prova, radio, prova. Prova. sì. Almeno riesco a sentirti, capisco cosa stai dicendo. Adesso? Molto meglio, sei veramente bello. Ah, ah, ah, ah, e lì, qualcuno esce, apposta. Allora, guarda, il processore, no? Ho messo l'amplificatore al massimo. Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto, pronto. Sei tipo che vuole rivincita. Oh, no, no, no, allora, oggi sono arrivato. Con il mio 218 miliardi ne ho adesso. Esagerato. Oh yeah, io invece sono preso un'installazione. Ma chi c'è? A chi vede? Non so, non c'è nessuno. C'era Claudio prima, se non sbaglio, boh. Non so. Aspetta un attimino. Prova, 1, 2, 3, prova. Va bene, così è troppo alta. Così riesco almeno a capirti. E poi faccio chiamata, ma se vediamo ti sei? Ma c'era un segnale 9.40 pronto di chi era? Potesse fosse il suo. Porca miseria, sono andato a scaricarmi un coso, un programma che mi serviva. E fiducioso, ho premuto l'aggiornamento della Apple e siccome era patchato questo sistema operativo che avevo già installato, l'aggiornamento mi ha letteralmente sputtanato tutto qua. Quindi devo ripartire da zero. Ma porca miseria, io ho finito tardi mettendolo proprio a posto e stamattina ero contento perché avevo trovato l'arcano e quindi ero pronto per proseguire la mia azione. Devo ritornare punto a capo. Ma prima di andare a fare quest'anno sono la patente. Ho mandato la documentazione ieri, l'ho spinta. Niente, no, ma io ho mandato il modulo con l'esenzione degli esami. C'è proprio un esame allora? No. Ah, vabbè, se sai, non ho neanche bisogno. Meglio così, buon per te. Ma allora non ho detto la verità, solo che no, troppo difficile studiare, no. Il discorso del sapere e del non sapere è tutto relativo, perché io ho un diploma preso negli anni 80. Il discorso è che approfitto del fatto che danno per scontato che chi ha il titolo di studio come quello che ho io si ha una base di conoscenza e quindi siccome è stata già certificata dal diploma della scuola media superiore, ecco che non viene esentato anche dall'esame. Però è evidente che le conoscenze che potevo avere appena diplomato in fatto di elettronica non sono le conoscenze che ho adesso, no? Certo, ci mancherebbe. Vabbè. Sono passato. Stanchino anche oggi. Vabbè, mi stavo abituando in questa scuola che hanno messo fuoco. In via. Sai che via là. Vabbè. Hanno messo fuoco uno stanzino. E gli ho dato una passata di pittura, tutto bruciato dentro. Vabbè, diciamo che i muri erano già pitturati dal bianchino. Gli ho dato la seconda mano. Niente, sono un po' con le braccia a terra. Ma usi ovviamente le prolunghe, no? E i rulli? E il rullo no, la soffitto l'ha fatto il bianchino, io mi sono fatto i muri, è certo. A parere non riuscivo più da lì. Quindi rullo e griglia. Ho fatto, vabbè, i bordi con la pannellessa e poi sono fatto al rullo dall'alto verso il basso, io ne sono fatto la tappia alta, a metà quello dove arrivavo ho levato il mattone con la lungabile e l'ho fatto. tutto così, a mano. Non riuscivo più, per carità. E K, aspetta un attimo che mi avvicino, che non deve andare in stand-by il computer, se no altrimenti mi blocca l'installazione. Aspetta due secondi. Dai, fa le spunte, salvato. Sono contatti, ma sulla batteria devi le spunte. Io non va mai in stand-by, mai. Perfetto, sono qua. Se non ti rispondo più vuol dire che sono Lu, eccomi.